È un trend che prosegue. Gli esponenti del Movimento 5 Stelle dicono sempre di non paragonare le elezioni politiche alle elezioni amministrative, quindi di raffrontare al voto precedente. In questo caso il voto precedente delle regionali in Sardegna non c'era neanche stato, perché il Movimento 5 Stelle non si era candidato, però sicuramente non sono segnali positivi. È un trend che va avanti e che secondo me questa volta si aggrava ulteriormente per il Movimento 5 Stelle, perché è più equilibrata, come dire, la distribuzione dei voti all'interno della coalizione di centrodestra, quindi Salvini è più indotto a ricostruire una coalizione, i voti non rimangono all'interno dei giallo-verdi quantomeno. Questo risultato avrà delle ripercussioni sul governo nazionale? Sicuramente, direi sicuramente, a questo punto sicuramente. E allora diciamo che avrà delle ripercussioni sul Movimento 5 Stelle e a cascata sul governo nazionale. Di Maio cercherà di utilizzare questa sconfitta, questa flessione di voti molto forte per riorganizzare il Movimento 5 Stelle e per nominare dei responsabili regionali e poi dei responsabili per aree tematiche. Soprattutto il Movimento 5 Stelle andrà a toccare l'ultimo pilastro identitario della sua storia, cioè il limite di due mandati elettivi, che è il vero ostacolo che impedisce la creazione di quadri locali e di candidature a scala locale molto forte, perché evidentemente tutti provano a essere europarlamentari o deputati o senatori e non vogliono bruciarsi un mandato elettivo in un consiglio comunale. E quindi il Movimento 5 Stelle uscirà ancora molto modificato da questa storia. Di Maio spera che sia un Movimento 5 Stelle ritagliato attorno alla sua leadership e spera di ancorarlo ancora di più alla Lega. Quello che sarà di questa trasformazione, che inesorabilmente intreccia il tema della riforma interna organizzativa del Movimento 5 Stelle al destino del governo, ci dirà del destino di questa legislatura. Se dobbiamo dire rispetto a ieri, evidentemente il governo e il Movimento 5 Stelle sono un po' più deboli. Resto un attimo su quello che ci hai detto a proposito di quello che tenterà di fare Di Maio, perché oggi ha preso parola una delle senatrici ribelli, diciamo così, Paola Nugnes, che ha detto che bisogna ridiscutere la leadership di Di Maio, quindi la questione della fronda interna con quelli vicini a Fico, non so se chiamarli fichiani perché suona un po' male, però insomma avrà un qualche peso, una qualche incidenza oppure no? Io penso di no. Penso che fino a quando, per il momento no, fino a quando non ci sarà, fino alle elezioni europee, questo assetto e questo vertice reggerà. È ancora un stato puntellato qualche giorno fa dall'incontro tra Di Maio con Grillo e Casaleggio, le cui idee non corrispondevano, non combaciavano perfettamente con quelle di Di Maio, ma che per gioco forza hanno dovuto per forza accettarle. Faccio notare una cosa che poi hanno notato, che l'intervista uscita sul Fatto Quotidiano di domenica a Casaleggio dice due cose che sarebbero state impensabili fino a poche settimane fa. Cioè dice che i consiglieri comunali dovrebbero guadagnare di più, cosa che appunto fa un po' sorridere, perché... e poi ammette in qualche modo che Di Maio deve mettere mano all'organizzazione interna, e aggiunge una cosa che è abbastanza sorprendente per lo stile di comunicazione che la Casaleggio Associati ha gestito del Movimento 5 Stelle. Cioè dice: non bisogna semplificare troppo le questioni, perché le questioni sono complesse. Detto da la responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle, non è poco, è il segnale che c'è un grande rimescolamento in atto. Questo rimescolamento, secondo me, nel breve periodo non implica clamorose defenestrazioni, non implica che il vertice attuale crolla. Si mette mano alle regole, anche perché è l'unica cosa che si può toccare. Non si può toccare il vertice e non si può toccare l'alleanza di governo. L'ultima cosa che rimane è cercare di mettere mano alle regole e cercare di accontentare quelli che vedono la tagliola dei due mandati come il rischio della fine della propria carriera politica, che è tutto lo Stato Maggiore di Trino praticamente e tutti i principali sindaci. Ed è quello che avverrà. Tu hai sottolineato più volte come il Movimento 5 Stelle insomma abbia avuto anche storicamente, diciamo così, una penalizzazione elettorale nelle consultazioni locali, ci hai spiegato anche i meccanismi, ma questa crisi di consenso attuale, come dire, viene da questioni locali, dal poco smalto dei candidati, o possiamo trovarci anche delle dinamiche nazionali sulle scelte fatte dal Movimento fino a qui? Per stare al caso della Sardegna, in questi ultimi tempi è stata scossa dal Movimento dei Pastori, ed è curioso, io penso che questo dovrebbe preoccupare il Movimento 5 Stelle più della crescita del centro-sinistra, del ritorno in campo del centro-sinistra, cioè il fatto che un movimento che non ha caratterizzazioni ideologiche, che almeno non ne presenta, che presenta una questione specifica, che è un movimento di protesta, non si riversa automaticamente nel voto di protesta per il Movimento 5 Stelle. Quindi in questo momento è come se il voto per i 5 Stelle non riesca più a essere un voto di protesta, ma contemporaneamente non venga neanche percepito come un voto per un partito di governo affidabile. E questo è quello che vincola 5 Stelle sul piano nazionale, che credo si sia manifestato in questi voti locali.